America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. C'è stato un input olandese a dire cerchiamo una soluzione e dopo il voto 95-95 una proposta italiana, e poi abbiamo fatto una conference call su un telefonino con i due primi ministri. Avete sentito il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni che dà la notizia del compromesso che a un certo punto è stato raggiunto ieri sera al Palazzo di Vetro dopo una quantità innumerevoli di votazione, credo che siano state alla fine 5 le votazioni totali, che non erano riuscite a sbloccare l'impasse fra Olanda e Italia. Chi dei due avrebbe prevalso? Alla fine si è avuto un risultato di parità nell'ultima elezione, avete sentito, 95-95, e dunque quello è sembrato, come dire, un messaggio anche per il buonsenso, soprattutto dopo Brexit. Perché è ovvio che Brexit, dopo aver indebolito l'Europa, dopo averla resa più fragile, dopo aver creato questa percezione di spaccatura all'interno dell'Europa, beh, ecco, dopo tutto questo c'era bisogno di un messaggio per l'unità. Sentiamo di nuovo Gentiloni che ci racconta questo particolare aspetto. Beh, noi abbiamo deciso di chiudere la partita in pareggio e senza andare ai rigori. È una dimostrazione del fatto che in fondo tra di loro i paesi europei, anche in condizioni molto competitive, perché questa è stata una campagna che per l'Olanda è durata 12 anni, per l'Italia comunque è durata 7-8 anni, alla fine in 20 minuti si trova una soluzione che dà un segnale in controtendenza rispetto a un momento in cui l'Europa sembra veramente un po' sgretolata. Quindi un bel segnale in controtendenza rispetto alle divisioni europee, penso che stasera l'abbiamo dato. Ecco, avete sentito Gentiloni che dà appunto un messaggio che, come dire, cerca di promuovere l'idea dell'unità. Inutile andare allo scontro prolungato, perché dopo tutte le votazioni che ci sono state ieri si sarebbe dovuto continuare oggi, chissà quante altre votazioni avremmo avuto. E d'altra parte anche dagli stessi paesi membri delle Nazioni Unite veniva un messaggio abbastanza chiaro, perché in fondo quei 4 voti che mancavano per l'Olanda avrebbero potuto raccoglierli. Io direi che c'è stato, come dire, un consenso generale nel cercare di tenere questi due paesi l'uno contro l'altro per capire come ne sarebbero usciti, e tutto sommato ne sono usciti bene in una giornata tra l'altro caratterizzata un po' dal recupero dei nervi saldi anche in borsa, anche negli Stati Uniti, oltre che in Europa abbiamo avuto un andamento piuttosto buono. L'indice Dow Jones ha guadagnato l'1,57%, si sta cercando di recuperare un po' di calma dopo il nervosismo degli ultimi giorni. Ha aiutato anche non poco un dato importante sul fronte economico, cioè che l'economia americana è cresciuta nel primo trimestre dell'1,1%, e il terzo aggiornamento che ci è stato comunicato dal Dipartimento al Commercio, il primo dato sulla crescita del primo trimestre era molto negativo, lo 0,3%, il secondo lo 0,8%, oggi ci si aspettava una conferma di quel dato, invece siamo andati al di sopra dell'1,1%. Questo per dire che ci sono le notizie, ci sono le percezioni di panico, di cambiamento storico. Poi però il mondo alla fine va avanti e continua ad andare avanti anche nel giorno per giorno. Questo dato, vi ripeto, è piuttosto importante perché consente di tirare su la media per l'intero anno 2016 in termini di prospettiva di crescita per gli Stati Uniti d'America, che svolgono comunque un ruolo di traino. Ma torniamo a quello che per noi è il tema centrale della giornata, perché ci sono state naturalmente polemiche attorno a questo compromesso. Alcuni hanno sottolineato che l'Italia è il settimo contributore in termini di fondi alle Nazioni Unite ed è il primo contributore fra i paesi europei per la partecipazione alle missioni di peacekeeping. Abbiamo, per esempio, in Libano un migliaio di uomini. Ecco, aggiungiamo a questo che, insomma, il nostro paese non è l'Olanda. Il nostro paese ha una forte presenza e influenza nel Mediterraneo, che è l'epicentro di gravi crisi con ripercussioni globali, dalla guerra in Siria all'instabilità della Libia, che ci riguarda molto direttamente. Aggiungo, l'anno prossimo ospitiamo il G7. Ecco, eppure a un certo punto ha prevalso, come ci ha raccontato Gentiloni, l'idea dell'unità. Ecco, io credo che sia stato un messaggio nobile, sia stato un messaggio importante, soprattutto in questo momento. Se non fossimo stati nel post-Brexit, forse sarebbe stato un po' azzardato, ma una vittoria a metà è meglio di una sconfitta, anche se poi dovremo aspettare chissà quanti anni, 7, 8, perché ricordiamolo, attenzione, l'Italia è entrata in gara 7 anni fa, ma Olanda e Svezia si erano già candidate 10 anni prima, quindi c'è questo problema di fondo che andrà risolto. Che si candidino due stati europei per due seggi disponibili, che non ci sia questa battaglia, che si cerchi di risolvere il problema in partenza e non all'arrivo. Ma questo riguarderà il dibattito per gli anni a venire. Nel frattempo questo messaggio, devo dire, di stabilizzazione di unità è anche importante dopo quello che è successo in Turchia e su cui vorrei chiudere la trasmissione sempre con le dichiarazioni del ministro Gentiloni ieri alle Nazioni Unite. Sentiamolo. Io penso che da un lato che la vicinanza che ho espresso qui all'ambasciatore turco alle Nazioni Unite sia la prima reazione. Siamo in un contesto naturalmente difficile, nel senso che da un lato stiamo ottenendo dei successi come forse mai negli ultimi due anni nei confronti di Daesh. È stata liberata proprio in questi giorni Fallujah, abbiamo anche in Libia quasi la liberazione di Sirte e progresso delle forze della coalizione in Siria verso Raqqa è notevole, quindi Daesh è in ritirata, ma non c'è dubbio che mentre noi guadagniamo terreno e Daesh perde terreno, la minaccia terroristica resta attuale e quindi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e rafforzare la cooperazione intraeuropea per la sicurezza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo avuto dei momenti di separazione, di frattura. Ieri abbiamo visto due paesi europei, l'Italia e l'Olanda, che, come dire, si sono presi per mano per superare differenze e dare un messaggio di unità. Dunque, visto che tutto è partito da Brexit e dall'Inghilterra, torniamo a una canzone dei Beatles, ma questa volta prendiamone una positiva. Come Together dei Beatles. Together. Come together. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.